Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Green Jobs è un progetto di educazione alla imprenditorialità rivolto agli studenti delle scuole superiori lombarde, con cui oltre 1200 liceali hanno provato a dar vita a delle piccole imprese sostenibili. Si è appena conclusa la seconda edizione di questa, che è anche un po' una competizione. 58 le startup che hanno partecipato, e noi ne parliamo con Andrea Trisoglio di Fondazione Cariplo, capo del progetto Green Jobs, che, ecco, lo ricordiamo, è stato sviluppato da Fondazione Cariplo insieme a Invento Lab e Junior Achievement Italia. Buonasera, buonasera Trisoglio. Buonasera Melis e buonasera agli ascoltatori. Allora, senta, intanto ci spieghi un po' come funziona, è un percorso che questi ragazzi hanno fatto, no? Sì, è un percorso che dura l'anno scolastico sostanzialmente. I ragazzi divisi in classi, quindi sono le classi... 58 classi per 58 startup. Perfetto, no? Sì. E per un intero anno vengono accompagnati da esperti sull'autoimprenditorialità green, oppure di esperti green veri e propri. Per le parti tecniche, diciamo. Per le parti più tecniche, che serviranno poi ai ragazzi per implementare un servizio o un prodotto che è direttamente collegato a un problema ambientale che vogliono affrontare i ragazzi. E in questo accompagnamento ci sono aziende che aiutano i ragazzi a realizzare proprio gli interventi finali, o che li indirizzano verso delle idee imprenditoriali che li aiutano sostanzialmente a sviluppare questa idea. Ecco, dicevamo che c'è bisogno di un'assistenza sul lato appunto strettamente dell'imprenditorialità. Questi ragazzi, soprattutto quelli dei licei, un business plan non hanno la più pallida idea di che cosa sia, naturalmente, no? Per esempio, prima di fare un'esperienza di questo genere. Ma c'è anche una parte tecnica, e qui veniamo alle idee, perché queste idee hanno a volte un contenuto tecnico assolutamente sorprendente per delle scuole superiori. Sono sorprendenti perché nascono anche molto dal vissuto dei ragazzi, quindi ci sono i ragazzi della Val Camonica che hanno realizzato uno stick col burro di malga, quindi chilometro zero, stick con prodotto realizzato in prodotti riciclabili, piuttosto che della scuola che ha creato delle candele con l'olio esausto, piuttosto che i vincitori dell'anno scorso che hanno realizzato per i bambini più piccoli dei pastelli colorati, e la parte terminale del pastello c'è il seme di una pianta dello stesso colore del pastello. E questo perché... Fantastico. È un modo anche per, in questo caso, per invogliare anche i ragazzi a non buttare via nulla, ma a far capire loro che tutto può essere anche... Ecco, di alcune delle startup che hanno avuto risultati migliori quest'anno poi parleremo in alcune puntate in futuro. Ci sono veramente delle cose sorprendenti. Ne cito solo una startup chiamata Cinzia, che utilizza delle proteine presenti nelle ali delle farfalle per fare dei cosmetici. Non so da dove abbiano pescato questa cosa dei ragazzi delle superiori. Ecco, ma perché appunto le superiori? Perché quasi sempre questo tipo di iniziative sono rivolte a giovani ricercatori o comunque a dei laureati. Perché questi ragazzi sentono parlare di green jobs, di circular economy, ma non riescono ancora a capire che potrebbe essere parte del loro futuro, non solamente di quello che leggono sui giornali, leggono su internet o guardano in televisione. E noi attraverso questo progetto vogliamo fare una sorta di orientamento, metterli alla prova e farsi mettere alla prova rispetto a dei progetti che non hanno soluzioni predefinite, sono i ragazzi stessi che definiscono la soluzione, e questo dà loro anche modo di entusiasmarsi, che è l'aspetto più importante dell'essere giovani oggi e dell'affacciarsi al mondo del lavoro, visto che si dovranno creare il lavoro che faranno da grandi. Che faranno da grandi, che forse non sarà quello lì che stanno sperimentando facendo, no, questa esperienza di startup. Ecco, questo dobbiamo dirlo, non è che vi aspettiate che nascano 58 startup di successo da questa esperienza. Assolutamente no, però è bello appunto l'esperienza, il fatto di aver collaborato assieme, e quindi è un qualcosa che hanno imparato a fare. Hanno imparato a gestire i conflitti, perché lavora tutta la classe, hanno imparato a chiedere all'esterno della classe laddove loro non hanno le competenze per affrontare un problema, sono insomma delle competenze chiave di cittadinanza che possono essere utili a prescindere da quello che i ragazzi sceglieranno di fare in futuro. E comunque appunto di alcune di queste iniziative parleremo e non è nemmeno escluso che qualcuna di queste possa veramente diventare una startup in piena regola in futuro. Per intanto grazie Andrea Trisoglio. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.